tra i denti, dove quello che accade ogni giorno non lo vorresti mai. Puoi gridare, ti puoi impegnare, ma hai sempre quella certezza che non ci riuscirai. Tutti vogliono tutto, ma il tutto non è niente. Lo vedi dentro gli occhi della gente. Quel tutto può bastare, quel tutto può finire. Ma spesso è così. Questi tempi senza regole, l'ottimismo non abita più qui. Puoi sorridere alla vita e andare avanti, riderci un po' sopra, sperando ai santi. Ogni giorno la tua festa.